Nessuno viaggia, nessuno incontra clienti, i clienti non vogliono incontrare nessuno, gli aeroporti sono vuoti, gli aerei non decollano, ma loro ci sono sempre. Meazza e la Rosciani, che è il virus, mai li incontri sulla sua strada. Avanti ragazzi, avanti così! Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. I precetti di difesa si possono riassumere così: evitare il contatto coi malati e coi convalescenti di influenza, condurre vita sobria e ordinata, sfuggire qualsiasi intemperanza, evitare i luoghi chiusi di pubblico ritrovo di ogni genere, i viaggi non necessari. Evitare molestie e pericoli ai vicini, non sollevando polvere nei locali frequentati, non sputando sul pavimento e possibilmente abituandosi a non sputare affatto, starnutendo e tossendo solo nel proprio fazzoletto, parlando senza proiettare goccioline di saliva intorno a sé. Intensificare la nettezza della propria persona con particolare riguardo alle mani e alla bocca. Intensificare la nettezza della propria casa. Non prendere medicinali senza prescrizione medica. Buongiorno Deborah. Hai ascoltato con attenzione? Ho ascoltato questa attenzione, mi ricorda qualcosa dei nostri tempi, questa lista di raccomandazioni che in realtà risalgono a qualche secolo fa. Risalgono a un secolo fa, al 1918. Allora, a quell'epoca fu colpita, diciamo, tutta la popolazione terrestre, quindi ci fu una pandemia. Anche allora si chiamava spagnola, era stata chiamata l'influenza spagnola. In realtà non era diffusa solo in Spagna, né proveniva dalla Spagna, è che gli altri paesi europei nel 1918 erano ancora in guerra per buona parte, e quindi diciamo che le informazioni su questa influenza, che era molto molto perniciosa e spesso letale, venivano date con molta prudenza, perché non si voleva abbassare il morale delle popolazioni e delle truppe, mentre in Spagna, la Spagna era neutrale, le informazioni circolavano con maggiore facilità. E queste raccomandazioni somigliano molto, non trovi, a quelle che il governo ha messo nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, a quelle che tanti altri governi via via stanno mettendo in atto. Queste azioni di contenimento sarebbe interessante capire in che modalità le rispettavano, appunto, in quella fase, se alla stregua di quello che sta succedendo in questo periodo tutti fossero a caccia, appunto, di scappatoie, come succede tra tanti di noi, non tanti di noi, tra tanti di loro, perché io sono chiusa in casa da diversi giorni. Brava. Evito in ogni modo, appunto, il contatto con l'esterno, però molte persone, come abbiamo avuto modo di ascoltare ieri, in realtà fanno molta fatica a rispettare le raccomandazioni, che sono in realtà qualcosa di più di raccomandazioni, perché sono tutte indicazioni molto precise contenute in un provvedimento legislativo, ma in ogni caso la corsetta la si vuole fare, si cerca di capire se c'è possibilità, appunto, di non stare troppo in casa. Noi continuiamo a raccomandare a tutti di stare in casa, perché ancora i contagi sono tanti, sono troppi, soprattutto le vittime, per cui noi cerchiamo di fare il nostro, di farvi compagnia nelle modalità in cui possiamo. Voi fate il vostro, ovviamente stando a casa, per prudenza, per voi e per i vostri cari. Mauro, e con il piccolo editoriale di partenza, come brava, al solito. Oh, mi hai veramente, devo dire, oggi mi hai molto convinto con questo tuo esordio. Allora, il nostro, sai cosa sarà oggi, cara Deborah? Il nostro sarà parlare di lavoro, perché è mercoledì, sì. E quindi noi il mercoledì, qui a Due di Denari, parliamo di lavoro. Ora tu dirai... Il Cura Italia ha un sacco di cose interessanti. No, scusami, tra l'altro, non ti ho abbastanza stuzzicato su un tema, ma questa edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, perché stamattina sentivo i titoli dei telegiornali, io mi alzo abbastanza presto e mi sento tutti i rulli di tutti i TG nazionali, e in molti hanno proprio sollevato la questione di questa edizione straordinaria di questa Gazzetta Ufficiale, che contiene l'articolatissimo decreto Cura Italia. Sei emozionato? Guarda, devo dirti che su di me ha avuto un effetto un po' come il Malox per l'acidità di stomaco, cioè lenitivo e anche benefico. L'ho qui con me, anzi ti dirò di più, lo esibisco a beneficio di coloro che ci seguissero sui vari social che consentono anche la visione e non solo l'ascolto, ad esempio il Facebook, ma anche l'Instagram o che ne so, lo YouTube. Ecco, lo esibisco, è questo qua, lo vedete? Tra l'altro, per i cultori, proprio agli appassionati, ma potremmo anche dire quelli un pochino fissati come me, sappiate che è caricato, il provvedimento è stato caricato in formato grafico, cioè per fare prima hanno fotografato le pagine, insomma, che è una modalità che si usa qualche volta proprio per fare alla svelta. Di solito si fa con la finanziaria, con le manovre finanziarie, questa è effettivamente paragonabile alla manovra finanziaria anche per quanto riguarda il lavoro, e ne parleremo perché ci sono appunto i vari interventi, reinterventi sulle casse, le casse integrazioni, casse in deroga e quant'altro, ma anche i sostegni, le erogazioni proprio di denaro ad alcune categorie, e ne parleremo. Abbiamo scomodato come sempre un esperto, anzi due, di valore mondiale. Tu pensi che il provvedimento me lo sono aperto anche io, ce l'ho di fronte a me qua, piazzato sul mio PC, titolo 2, misure a sostegno del lavoro, capo 1, estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale, qua parte tutti gli articoli e tutte le disposizioni appunto di questa fase. Poi parleremo anche però di un mondo che non si ferma, che è quello dell'attività delle agenzie per il lavoro. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, in molte stanno continuando a ricercare profili, soprattutto quelli che sono necessari in questo frangente particolare per molte aziende. Si parla chiaramente del campo sanitario, del campo biomedicale, ma ci sono tanti settori attivi, e in qualche maniera abbiamo voluto fare questo lavoro anche di dare questo segnale positivo di aziende che ancora continuano a produrre, che sono attive in questo momento e che cercano profili professionali, e quindi anche in questa fase di emergenza le agenzie del lavoro si stanno letteralmente mettendo a totale disposizione di queste imprese a caccia di profili professionali. Allora, noi avremo naturalmente i nostri abituali numeri sempre disponibili. Posso fare un ringraziamento anche alle ragazze e ai ragazzi qui del centralino, che sì, anche se in modalità appunto taluno in smart working, tal'altra invece in presenza, continuano a così essere a disposizione per permetterci di andare in onda e di ricevere le vostre chiamate. 800240024 è il nostro numero verde. Poi abbiamo naturalmente il numero per gli SMS e WhatsApp, 349-238-6666. Se vi piace, pure una casella di posta elettronica, 2 di denari, scritto tutto a lettere, @radio24.it. Cara Debora, abbiamo però il giornale radio del risparmio, che sta diventando un po' il giornale radio del virus qua, però purtroppo sì, di questo esatto, tocca parlare. No. Tra l'altro, anche stando in smart working, devo dire che Marco Lombardo lo compila in maniera veramente ampia, perché non so se è perché il periodo è particolarmente avvincente dal punto di vista delle notizie o se perché lui le trova, ma ce ne sono veramente tante, per cui diamo subito lettura del nostro GRR. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Allora, purtroppo in tempi calamitosi, come dire, tocca sempre parlare dei serpenti corallo, cioè di quelli che se ne approfittano. C'è chi vende le mascherine davanti al supermercato, naturalmente venditori abusivi che subito sono stati però pizzicati dalla Guardia di Finanza, e tra l'altro qui non distante dalla nostra sede milanese, in via Forze Armate. C'è chi vende mascherine e gel a prezzi esorbitanti, ugualmente viene pizzicato dalla Guardia di Finanza. Aumenti di prezzo fino al 6.000%, rialzi di prezzo online e non solo, ci avvisano appunto la Guardia di Finanza, perché in continuazione vengono fatti sequestri, operazioni di controllo sulle speculazioni, spesso appunto con anche basta investigare online per pizzicare coloro che mettono in vendita questi presidi a prezzi assolutamente esorbitanti. Ma la più pericolosa di tutti, cara Debora, te lo voglio proprio raccontare. Sì. Ci sono quelli che spacciano i farmaci antivirali o antivirus. Allora, non esiste un vaccino, lo sappiamo, lo diciamo tutti i giorni, lo aspettiamo, ci vorrà tempo, ci vorranno mesi, speriamo pochi mesi, comunque ci vorrà tempo. Non esistono farmaci miracolosi, non esistono farmaci che rendano immuni. Non so se posso dire qualcos'altro di più convincente. La sostanza è: se vi imbattete in qualche avviso online o in altro modo che dice questo è un farmaco che tiene lontano il coronavirus, ecco, è una truffa. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Cosa dici, Deborah? La parola mi sembrava inequivocabile, il termine che hai utilizzato. Io invece volevo parlare un po' di casa, Mauro, perché sì. Volevo intanto informare gli ascoltatori che noi stiamo assolutamente raccogliendo tutte le richieste di approfondimento di argomenti che ci stanno arrivando. Faccio un esempio, continuano ad arrivarci, è successo anche questa mattina, me lo ha chiesto mia cugina, domanda appunto da parte di ascoltatori che hanno figli che sono studenti fuori sede e naturalmente hanno in piedi dei contratti d'affitto. Allora in molti continuano a chiederci: ma se mia figlia non va all'università in questo periodo è tornata a casa sua, deve continuare a pagare l'affitto? Allora noi, da quello che ho capito, all'interno di questo provvedimento del Cura Italia una disposizione su questo non c'è, però abbiamo deciso di organizzare ugualmente una trasmissione, la faremo venerdì, per dare una risposta a tutti gli ascoltatori che sono alle prese con lo stesso dilemma, con l'UPI, l'Unione dei Piccoli Proprietari Italiani, per capire se ci sono anche delle linee guida di comportamento da adottare in questo momento. Altre domande arrivano da parte di persone che erano in procinto di comprare casa, l'abbiamo detto molte volte in questi giorni. Questa settimana dovevo firmare e stipulare il rogito per finalizzare la compravendita dell'immobile. Lo devo rinviare, devo evitare di andare dal notaio, anche perché magari non ci sono moltissime persone, ma un piccolo assembramento si consuma durante queste circostanze. C'è la persona che compra, quella che vende, il notaio, magari il funzionario della banca che ha erogato il mutuo. Quindi 3 o 4 persone nella medesima stanza ci sono, e allora è il caso di evitare anche questi appuntamenti. Questa mattina ne scrive Angelo Busani, pagina 33 del Sole 24 Ore, è un nostro fidatissimo notaio, un esperto storico del Sole 24 Ore. Lui che cosa dice alla domanda: si può pretendere di non stipulare il rogito di compravendita a fronte di un contratto preliminare che obbliga a stipulare in questi giorni di picco dell'epidemia? Busani dice: la risposta è negativa, perché l'inadempimento di questa obbligazione rende il debitore colpevole, a meno che egli non provi che il suo comportamento inadempiente è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, lo dice il codice civile. Per cui il punto anche in questo caso è, Mauro, il buonsenso. Se sì, possiamo rinviare, teoricamente dovremmo farlo. Eh sì, perché come scrive Angelo Busani, sì, insomma, e come hai ricordato anche tu, è difficile stipulare un rogito, diciamo, stando rigorosamente a un metro, quando magari le stanze a disposizione sono piccole e bisogna starci in tanta gente. Quindi, se possiamo, rinviamo. La legge purtroppo non dispone nulla, anzi in realtà dispone al contrario, però il buon senso è ben accetto in queste condizioni. Io darei un ultimo annuncio del giornale di Risparmio, e poi vedo già che scalpita il nostro esperto. Davvero? Un annuncio per i fratelli fumatori e le sorelle fumatrici. Sentiamo. Sai che io sono in sospensione, e così continuo, mi trovo bene, ho sospeso questa attività, però sono sempre vicino ai miei fratelli fumatori e sorelle fumatrici, e quindi vi avviso che c'è una maggiore flessibilità per le tabaccherie in questo periodo, sia per quanto riguarda le possibilità di chiusura, quindi potreste trovare chiuso il vostro abituale tabaccaio, sia per la modulazione degli orari. C'è stata una nota dei monopoli che il direttore ha diffuso e chiarisce che, volendo, le tabaccherie possono sospendere le attività se non sono in condizione specialmente di garantire la abituale distanza, la raccomandata distanza di un metro tra un avventore e l'altro, e poi possono naturalmente anche ridurre l'orario, che non potrà essere inferiore però alle 5 ore giornaliere. In caso di riduzione il titolare produrrà un'autocertificazione che spiegherà perché non può andare oltre le 5 ore di apertura. Deborah. A proposito di casa, guarda, un'ultima notizia, solo perché è arrivato fresco un messaggio di un ascoltatore che ci chiede, che ci racconta che molte banche stanno facendo muro di gomma per quello che riguarda la sospensione delle rate dei mutui. Allora, non è fare il muro di gomma, abbiate pazienza, il provvedimento l'abbiamo avuto questa notte. notte con tutti i suoi dettagli. Non è possibile che di fronte ad una promessa di fare qualcosa immediatamente ci si reca in banca. Ieri mi sono arrivate tante richieste di persone che conosco che hanno figli e lamentavano il fatto che sul sito dell'INPS non ci fossero ancora i moduli, le istruzioni dettagliate per fare richiesta del congedo parentale che viene, la cui possibilità viene data in questo periodo appunto se si è lavoratori dipendenti, che si sta in casa appunto per tenere a bada ovviamente i bambini che non vanno a scuola. Abbiate pazienza, lavoriamo tutti in una condizione di emergenza, quindi presto l'INPS darà le sue istruzioni per queste famiglie, così come le banche cercheranno di fare in modo di venire incontro a tutte quelle persone che in questo momento di difficoltà devono sospendere mutui e finanziamenti appunto in corso. Soprattutto questo provvedimento riguarda, Mauro, forse vale la pena ricordarlo, le imprese. Per quello che riguarda le famiglie c'è l'ampliamento del cosiddetto fondo Gasparrini, che ha già una sua dotazione, ha già delle procedure, e allora noi anche per queste famiglie che hanno questi bisogni domani faremo una trasmissione anche su questo argomento. Quindi spero di essere stata chiara, ma non è la questione di fare muro di gomma, è la questione di avere un provvedimento che nero su bianco dia delle istruzioni precise anche al mondo bancario per fronteggiare l'ennesima emergenza di questi anni. Molto bene, allora guarda Deborah, facciamo subito un dillo a due di denari che è molto interessante perché riprende quanto abbiamo trattato ieri. Vi ricordiamo che tutte le nostre puntate le ritrovate, così come quelle di tutti i programmi Radio 24, sul nostro sito www.radio24.it. Dillo a due di denari e poi andiamo rapidamente all'argomento lavoristico. Dillo a due di denari. Buongiorno, sono Marco dalla provincia di Torino. E a riguardo della denuncia penale, io sono stato denunciato venerdì sera perché mentre tornavo dal lavoro, quindi avevo il foglio di giustificazione, percorrevo la strada, mi sono fermato senza saperlo, perché io non sapevo che non potevo andare all'autolavaggio a lavare la macchina perché era molto sporca e volevo altresì insomma disinfettarla un po', e niente, sono arrivati i carabinieri e mi hanno denunciato perché hanno detto che io non potevo. Io giuro che non lo sapevo, perché non lo sapevo, anche perché l'autolavaggio era aperto, quindi se uno non può fermarsi a lavare la macchina, l'autolavaggio di regola deve essere chiuso, perché non era chiuso e ancora adesso non è chiuso. Cara Deborah, io sono tornato a interrogare il nostro esperto che abbiamo avuto ieri, cioè l'avvocato Valerio Vallefuoco, che mi ha così risposto. Come tutti i soggetti che ricevono un verbale, quindi tutti coloro che vengono fermati ricevono un verbale per questi motivi, ricordiamo che da ieri c'è una nuova modalità di autocertificazione, di autodichiarazione. Come tutti i soggetti che ricevono un verbale in cui si contesta il reato, questo signore ha diritto a nominare un avvocato, fare una memoria al pubblico ministero e spiegare l'accaduto, sostenendo quindi che lui non aveva torto perché è andato in un esercizio che non era chiuso, quindi l'operazione era igienicamente adatta. Poi avrà il diritto di presentare, quando gli verrà presentato il decreto penale di condanna, perché ricordiamo, si va nel penale, non c'è solo una multa, l'abbiamo detto molto chiaramente ieri, un'istanza di oblazione, quindi chiedere al giudice di trasformare l'ammenda in una sanzione amministrativa per non gravità del fatto, quindi di conseguenza diventa una multa che non ha poi effetti sul penale, sul procedimento penale e sulla sua fedina penale. Spero di essere stato chiaro. Vuoi cominciare, vuoi lanciare tu allora il nostro spazio di lavoro, Deborah? Sì, esatto. Allora, guarda, mi sentirei più a mio agio se mandiamo la consueta sigla. È un segno di normalità. Dov'è il nuovo lavoro? Dov'è il nuovo lavoro? C'è una panoramica di ammortizzatori sociali molto ampia, una riorganizzazione anche, ammortizzatori sociali d'emergenza, li potremmo ribattezzare così. Mauro, peraltro, si apre anche questa opzione per le partite IVA, per i lavoratori autonomi, c'è questo bonus da 600 euro per gli autonomi delle gestioni IMSS e tante altre novità con le quali appunto dovremo prendere confidenza, soprattutto le imprese, immagino, no? Che devono adesso riorganizzare la loro attività anche in base a questo. È così, Deborah, ci sono molte normative, qualcuno ci dice ma c'è qualcosa per gli artigiani commercianti? Sì, ne parleremo. Ci sono dei sostegni un po' a pioggia, verrebbe da dire, ma abbiamo ovviamente riconvocato subito il nostro esperto che in questi giorni sta diventando un esperto abituale, più che oltre ad essere un esperto mondiale, cioè Enzo De Fusco. Buongiorno, bentornato. Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti voi. Allora, qui abbiamo a disposizione innanzitutto la cassa integrazione, che però è estesa perché sostanzialmente è anche accessibile da parte di chi ha meno di 5 dipendenti. Oggi sul Sole 24 Ore segnaliamo che le regioni si stanno attivando per appunto dare la disponibilità di accedere a questa cassa integrazione. Su questo cosa dobbiamo dire rispetto al decreto legge Cura Italia, Enzo? Intanto abbiamo un decreto legge definitivamente andato in gazzetta, questo secondo me è già una ottima novità, perché le imprese avevano anche perso un po' le speranze, visto che si parlava di questo decreto la settimana scorsa. Allora, il quadro normativo mi sembra oramai abbastanza consolidato, l'ammortizzatore sociale viene riconosciuto a tutte le tipologie di impresa, quindi siano esse industria, commercio, servizi, terzo settore. Cambia solo lo strumento. Chi già era dotato di uno strumento ordinario di ammortizzatore sociale, quindi la CIGO, allora utilizzerà questo strumento con la causale specifica, quella speciale Covid-19. Chi aveva il FIS, perché quindi è il Fondo Integrativo Salariale, continuerà ad utilizzare il FIS utilizzando sempre la causale specifica. Chi non aveva nulla, microimprese, grande distribuzione, altri settori non coperti, ci sarà la CIG in deroga che potrà essere richiesta alle regioni e sarà pagata direttamente dall'INPS ai lavoratori. Aspetta, però ti fermo subito perché ci sono dei dubbi già in questo senso, ma io datore di lavoro, devo prima, come dire, passare dalle ferie, passare dallo smart working, posso attivare subito la CIG, c'è una libertà di utilizzo di questi ammortizzatori? C'è una libertà completa, non esiste un vincolo di legge che impone al datore di lavoro di passare prima per lo smart working piuttosto che per le ferie. È chiaro che sono consigli che anche lo stesso in qualche modo DPCM, che ha tracciato le zone di emergenza, ha indicato come strada, però è evidente che lo smart working e le ferie sono riconosciute, ma rimangono anche a costo pieno del datore di lavoro, e se un datore di lavoro non ha attività lavorativa da far svolgere, è chiaro che la soluzione alternativa a questi istituti può essere direttamente la cassa integrazione. Posso dire una cosa sgradevole, Deborah, mi perdoni, poi ti ma lasciamo certo. La cosa sgradevole che sottopongo a De Fusco, ecco, Enzo, vorrei ricordare, se si mette un lavoratore in cassa integrazione, poi costui non deve lavorare, altrimenti si rischia grosso. Scusa, forse ho detto una banalità, De Fusco. No, non hai detto una banalità, purtroppo i furbetti ci sono sempre e speriamo che questa condizione di emergenza li faccia riflettere fino in fondo. Dico solo una cosa, un'operazione di questo tipo può costare anche una condanna penale, perché si concretizza frode nei riguardi dello Stato, quindi occhio, perché sono operazioni molto molto delicate e soprattutto sono tenute anche sotto controllo dagli organi amministrativi. Bene, allora con questo ammonimento, che mi pare abbastanza chiaro, Deborah, raccontaci come vanno le borse, ma soprattutto oggi mi viene da dire, guarda, come va lo spread, che improvvisamente così si è risvegliato. Si era infiammato un'altra volta. Ma la BCE dice che fa qualcosa, cioè a differenza di... Ma sai, sono interventi sempre un po' tardivi, nel momento in cui arriva l'ennesima giornata di nervosismo in borsa intervengono, si procede ancora in ordine sparso in Europa, diciamo che aveva convinto un po' di più l'America ieri con questo maxi piano di 850 miliardi di dollari che Trump si dice pronto a varare. fare d'intesa con la Federal Reserve e il mercato azionario americano ieri era un pochino più convinto. In Europa si va ancora ognuno per conto suo e di fronte a questo i mercati fanno lo stesso. Ma ti racconto tutto fra un attimo. Le borse. Siete un megafono per i poteri forti economici e politici. Due di denari. E bentornati, bentornati. Stiamo parlando di lavoro, o meglio oggi di sostegni al lavoro. E ad esempio sui vari sostegni, modalità di lavoro in questi tempi così inediti, ci ha chiamato Giovanni. Giovanni, buongiorno, è in linea? Sì, ci sono, buongiorno. Lei ci poneva una domanda abbastanza puntuale, ci dica, ce la riassuma. Sì, in realtà infatti volevo approfondire il discorso proprio riguardo a smart working, ferie e relative tutele che si stanno concretizzando con questo nuovo decreto. Più che altro perché, se posso fare un attimo un passo indietro, la situazione è quella in cui nell'azienda in cui lavoro si è scelto il ricorso a ferie forzate in base alla legittimazione che lo stesso decreto dell'11 marzo aveva dato. Sì. Pur nonostante nello stesso testo si cercava di promuovere il lavoro agile o smart working, che dir si voglia. Sì. E quindi l'ambiguità del decreto, secondo me, stava proprio in questo, cioè che il datore di lavoro era indotto a privilegiare le ferie proprio rispetto a soluzioni più smart, tipo il lavoro agile. E quindi, secondo me, in sostanza andando a penalizzare i lavoratori in questa situazione già abbastanza critica e preoccupante di incertezza. Quindi lei, la sua domanda è, ma non si deve prima, magari prima della ferie, delle ferie forzate, passare dallo smart working? Esatto, quello che mi chiedo io, in considerazione che ovviamente immagino che ci sia una condizione da verificare della fattibilità dello smart working, ma... se i lavoratori ritengono che questa sia una strada percorribile, conoscendo ovviamente le proprie mansioni che fanno, qual è il percorso giusto da seguire? Smart working, cioè, o c'è un'alternativa alle ferie? Una sorta di precedenza di percorso, cioè di gerarchia, grazie Deborah, ecco, non trovavo la parola adatta. Ma chiediamolo direttamente a Enzo De Fusco. Enzo, c'è una gerarchia da seguire? Cioè prima lo smart working, dopo le ferie e poi, se proprio invece non c'è niente da fare, la cassa integrazione? Allora, intanto vorrei dire che questa condizione di emergenza sta mettendo a dura prova i lavoratori, ma anche le imprese. Quindi le scelte che vengono adottate cercano di essere sempre nella compatibilità con anche le risorse che hanno a disposizione le imprese, che sono poi di fatto alle quali si è di fatto azzerato completamente la colonna del ricavo del loro bilancio. Quindi è una situazione che va anche vista in questa chiave. Allora, non c'è una gerarchia, lo abbiamo detto prima. Sì. Lo smart working, per poter essere attuato, deve intanto basarsi su due presupposti. Il primo è che ci sia qualcosa da fare all'interno di quell'impresa. Certo. Quindi, se si tratta di un'azienda che può continuare a lavorare, e se sì, se ha poi clienti a cui erogare un servizio. Il secondo è che si tratti di una professionalità che può essere in qualche modo utilizzata proficuamente anche a distanza. Se ci sono questi due presupposti, io sono certo che l'impresa avrebbe adottato lo smart working. In assenza di questi presupposti, di uno dei due, è evidente che la soluzione va a ricadere sulle ferie, sempre che l'azienda abbia la liquidità finanziaria per poterle poi pagare, perché azzerandosi i ricavi molte aziende non hanno più questa liquidità. Diversamente, è chiaro che la soluzione inevitabile è la cassa integrazione, vale a dire trasferire il costo di questa prestazione sui bilanci dello Stato, così come lo Stato, con il decreto andato in gazzetta stanotte, sostanzialmente ha predisposto. Questa è la regola che in linea di massima si sta adottando. Perfetto. Io noto che le imprese hanno molta attenzione, ove possibile, anche di mettere forzatamente in ferie le persone, che è un diritto purtroppo che si utilizza, che si esercita proprio per dare un'organizzazione a queste imprese, ma soprattutto per assicurare a quei lavoratori anche un trattamento economico pieno, ove questo è compatibile con i bilanci. Certo. Grazie Enzo. Deborah, abbiamo in collegamento anche il nostro secondo esperto, vuoi introdurlo? Esatto. Lo introduco molto volentieri, introducendolo in questo modo. Tra le varie condizioni di emergenza che si stanno sperimentando in questo periodo c'è anche quella di sostenere i colloqui di lavoro per un'eventuale assunzione con Skype, ed è quanto stanno facendo in questo periodo le principali agenzie per il lavoro, che operano naturalmente a pieno ritmo per cercare di dare una risposta a tutte quelle aziende, a quelle strutture che cercano profili professionali. Ovviamente, come potete immaginare, in questo momento la richiesta di infermieri è altissima, soprattutto per le terapie intensive. Vengono richiesti con esperienza comprovata, se possibile, ma anche figure per le aziende, per esempio, del biomedicale, dell'area farmaceutica più coinvolte e sotto pressione in questa fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Allora ci facciamo raccontare se è così e come stanno gestendo questa fase da Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia, una multinazionale del lavoro. Ceresa, buongiorno e grazie per la sua disponibilità, perché anche voi avete fatto questa, che noi chiamiamo in genere con questo gergo anglosassone, una call to action, e quindi avete proprio fatto sapere che siete alla ricerca di tanti profili professionali. Chi sta rispondendo? Quali aziende intanto vi hanno chiesto aiuto? Chi sta rispondendo alla vostra, tra virgolette, convocazione, e come state gestendo questo momento intanto? Buongiorno. Certo, buongiorno, grazie mille. Ma direi che per fortuna negli anni passati abbiamo fatto degli investimenti proprio su tutte quelle che sono le tecnologie digitali, per cui noi oggi possiamo lavorare veramente da remoto, anche da casa, i nostri consulenti, per cui si fanno le interviste usando tutti i vari strumenti, Skype o altri. Dopodiché anche nella somministrazione, che richiede una parte burocratica molto, molto profonda, per cui con le firme dei contratti e così via, si possono firmare i contratti in digitale, perciò diciamo le aziende più evolute sono riuscite ad organizzarsi prima ed oggi non hanno dei grossi problemi. Certo, poi quando il colloquio, quell'azienda che vuole vedere la persona appunto di persona, allora bisogna stare molto attenti a seguire tutte quelle che sono le indicazioni del Ministero della Sanità, e perciò fare dei colloqui in cui non ci si stringe la mano, si sta a dovuta distanza. Ma direi che da questo punto di vista il lavoro sta andando avanti come prima. Certo, poi ci sono dei settori come quello medicale, biomedicale, ma anche l'informatica e direi la logistica, che ci stanno chiedendo tante persone, mentre altri, le persone anche che stanno lavorando in questo momento non le hanno più bisogno, per cui pensiamo alle catene dei ristoranti, pensiamo agli alberghi. E allora lì è importante capire che questa è una crisi forte, importante, paragonabile un po' all'11 di settembre, per cui dobbiamo stare tranquilli, coesi, capire che ognuno di noi lascerà sul tavolo qualche cosa, le persone, le aziende, ma poi si riprenderà come lavoravamo prima, forse anche in maniera più efficiente lavoreremo in futuro. Questo veramente è un test interessante, infatti, Mauro, questa fase, anche per noi radiofonici peraltro. Infatti guarda, io mi sento qui un po' solo, anche se Filippo Aureggi qui dalla regia vigila su di me, e oggi Luca Cremonese che ci aiuta in assistenza, in supporto a Marco Lombardo. Ringraziamo naturalmente tutti loro e tutti i colleghi che ci stanno aiutando. Io torno velocemente da De Fusco, in un minuto. Autonomi, lavoratori autonomi, partite IVA. Allora, sui liberi professionisti la dico io, così faccio bella figura, Enzo, il decreto non dispone, ma le casse professionali, quelle degli avvocati, dei commercialisti, dei giornalisti, hanno al loro interno delle possibilità di intervento, il decreto dice possono attivarle, il decreto legge numero 18 che impareremo, credo, a memoria in questi giorni. Per gli altri lavoratori autonomi che succede, Enzo? Allora, per gli altri lavoratori autonomi ci sono alcuni articoli che sono stati loro dedicati, per i professionisti, per diciamo i titolari di partita IVA e i collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto a questa indennità di 600 euro per il mese di marzo, quindi è una disposizione normativa che è stata pensata nel breve, quindi per il mese in corso. Poi vedremo come si evolve questa emergenza, speriamo che vada verso una condizione di riduzione e quindi nel mese di aprile potrebbe essere introdotta un'altra disposizione con un nuovo decreto, perché immaginiamo che si andrà di decreto in decreto almeno ogni 15 giorni per adeguare le tutele anche alla condizione sanitaria. Pertanto al momento ci sono 600 euro che avranno comunque un loro riproporzionamento rispetto all'effettiva assenza dal posto di lavoro, e poi ci sono anche per i lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, sostanzialmente un'analoga disposizione, sempre 600 euro e sempre limitata al mese di marzo. Quindi ora le domande bisognerà presentarle all'INPS, immagino, e quindi l'istituto ci fornirà anche le istruzioni di dettaglio. Certo, lo dobbiamo aspettare, l'abituale circolare. Allora, nell'aspettare la circolare magari ascoltiamo le informazioni sul traffico. Due di denari. Ma per noi agricoltori che stiamo continuando a lavorare in vigna, c'è qualche fondo che preservi comunque la raccolta di quest'anno? Perché per come stanno andando le cose si prevede un'annata nera per il mercato dell'uva e del vino. Quanti SOS, Mauro, mamma sì, mia. Purtroppo, guarda, non ti posso mostrare in questo momento, WhatsApp, ad esempio WhatsApp, ma WhatsApp è davvero un susseguirsi di richieste sì. particolari. Allora, agricoltori, velocissimo, De Fusco, sì, c'è una provvidenza anche per quanto riguarda sia coltivatori diretti, coloni e mezzadri, sia, se ricordo bene, pure per i lavoratori agricoli. Sì, sì, c'è una copertura specifica anche per loro, ma così come per il turismo. I settori particolarmente colpiti hanno stanziato, il governo ha stanziato come fondo proprio specifico diversi milioni di euro, quindi ora dobbiamo semplicemente capire le modalità di fruizione di queste somme, perché tutto è rinviato poi a disposizioni attuative. Comunque io capisco una cosa dalla lettura notturna di questo decreto, è che tutti hanno una risposta. Non mi pare che ci sia una sola categoria in Italia che non abbia una copertura. Poi, con più o meno soddisfazione economica in termini di indennità riconosciuta, ma tutti hanno qualcosa. Quindi l'agricoltura bisognerà attendere le disposizioni attuative, ma anche lì c'è un fondo specifico. Ecco, benissimo. Soprattutto raccomandiamo, Mauro, che cosa ne dice, anche un po' di pazienza. Se non abbiamo subito le istruzioni per poter fare le richieste dell'ammortizzatore che ci interessa, del sostegno che ci interessa, del contributo che ci interessa, diamo anche un attimo di tempo a tutte le autorità preposte a organizzare il tutto per darci tutte le istruzioni. Qua siamo in emergenza tutti, per cui bisogna veramente in questo caso armarsi di una pazienza enorme. Anche in questo caso dobbiamo fare un'esperienza forse del tutto nuova. Quella di avere veramente un po' di pazienza, anzi tanta forse, però è l'unica modalità con cui potremo gestire con grande serenità, con la maggior serenità possibile questa situazione. Posso fare un'altra domanda a Ceresa? Ma certamente, ci mancherebbe. Ma me la suggeriva in realtà proprio la considerazione dell'ascoltatore che si troverà in difficoltà con la raccolta dell'uva, quindi il settore vitivinicolo, ma il settore agroalimentare tutto. Credo che si apriranno probabilmente prossimamente anche delle posizioni per quello che riguarda questo settore, Ceresa. Le chiedo un commento su questo. E poi un altro tema che in realtà era stato sollevato un po' anche da alcuni ascoltatori che ci hanno fatto una domanda in questo senso. senso negli ultimi giorni, siccome per fortuna molte imprese non si fermano. Lei prima diceva sì, noi facciamo i colloqui con Skype, poi ammettendo appunto che il candidato superi questa prima fase di selezione, magari molti dovranno materialmente spostarsi, perché non è che tutte le aziende disposte ad assumerci ce le abbiamo sotto casa. Ammettendo di doversi spostare in questo momento, questi saranno sicuramente spostamenti autorizzati, ma supporterete i candidati anche in questi aspetti di comunicazione su come fare per raggiungere l'azienda disponibile appunto ad un'assunzione, ad una prova di lavoro? Sì, assolutamente. Prima di tutto dobbiamo pensare alle persone che stanno lavorando in questo momento. Tenga presente che noi abbiamo ancora il 90% delle persone che stanno lavorando nelle aziende nostre clienti. Per cui a queste persone, prima di tutto, sono stati dati tutti i documenti per poter circolare, tutte le dichiarazioni, ma poi sono state date anche tutte quelle che sono le indicazioni, che sono molto articolate, perché ci sono casi molto diversi tra di loro, ma ci sono delle indicazioni generali del tipo: mi raccomando, metti la mascherina, i guanti, stai almeno a 2 metri di distanza dai tuoi vicini di lavoro, controlla che sia stata fatta la sanificazione del tuo posto di lavoro, per cui diciamo diamo tutte queste indicazioni. Chiaramente le diamo anche ai candidati, per cui diciamo è un lavoro che facciamo a 4 mani con il cliente per essere certi che diciamo si possa lavorare con una relativa tranquillità. D'altro canto poi ci sono vari casi, no? Per cui succede che un nostro lavoratore è entrato in contatto con una persona che ha il virus, per cui dobbiamo ritirarlo dall'azienda, per cui diciamo stiamo dando tutte queste indicazioni caso per caso affinché le persone si sentano tranquille per poter continuare a lavorare, perché ci sono in effetti tante aziende che stanno lavorando e che devono continuare a lavorare per sostenere, diciamo, l'economia. Certo. Settore agroalimentare, Ceresa, ha già qualche così un po' idea su quello che potrebbe essere la richiesta di mercato in questo comparto prossimamente? Sì, non è un settore che noi conosciamo in maniera profonda, però credo di poter dire che nel momento in cui ci saranno delle richieste riusciamo, diciamo, a sopperire a queste richieste. Quello che è importante è pensare sempre alla formazione delle persone, non nel momento in cui diventano necessarie, ma in maniera prospettica. Qui dobbiamo anche nel settore agroalimentare ragionare in futuro quali sono le professioni che serviranno e preparare oggi le persone per il domani. Per cui la formazione sarà molto importante in questa fase, come lo è sempre stata anche in passato e lo sarà ancora di più in futuro. Deborah, abbiamo 3 minuti, diciamo, scarsi di trasmissione. Dai. Ancora. Io pesco così, ma proprio a caso, dalle tantissime telefonate, messaggi, sms che ci sono arrivati, perché ci sono forse 2 aspetti che non abbiamo, uno l'abbiamo solo sfiorato e l'altro non l'abbiamo proprio toccato. De Fusco, qualcuno ci chiede, ma io ho la 104. Per la 104 è quella sorta, quella legge che consente di prendere dei permessi dal lavoro se si deve assistere un familiare che ha delle disabilità, delle non autosufficienze. E nel decreto legge viene potenziata con ulteriori giorni. Come funziona? Sì, intanto proprio su questo tema, proprio in queste ore sta circolando un'interpretazione che posso considerare proprio sbagliata, cioè vale a dire che questa estensione dei permessi riguarda solo il personale sanitario. Non è vero, nel senso che questa disposizione si applica a tutti, 12 giorni in più da utilizzare tra marzo ed aprile rispetto a quelli che già la legge 104 consentiva a questi lavoratori. Al personale sanitario è possibile l'estensione sempre che sia compatibile con l'organizzazione chiaramente in cui operano. Questa è la modalità di riconoscimento della tutela che va ad aggiungersi evidentemente anche al congedo parentale straordinario, quei 15 giorni in più che vengono dati ai genitori con figli fino a 12 anni e poi chiaramente unitamente alle altre tutele che sono comunque previste dalla legislazione, come ad esempio anche la malattia in caso di quarantena, ma ne abbiamo parlato nelle giornate scorse. Ecco, ricordo come sempre ci sono a disposizione le nostre puntate precedenti sul nostro sito. Altro tema molto gettonato: professionisti iscritti alle casse, quindi professionisti con ordini che sono iscritti alle casse professionali. Cosa dispone il decreto legge e cosa potranno fare le casse professionali? Beh, io immagino che le casse professionali autorizzate entro un determinato limite di spesa potranno prevedere proprio degli indennizzi ai professionisti, no? Quindi è chiaro che in questo contesto l'attività professionale viene messa a dura prova al pari dell'attività imprenditoriale e di tutte le altre realtà economiche, quindi le casse ipotizzeranno e consentiranno l'indennizzo così come è stato previsto per legge dallo Stato per i collaboratori coordinati e continuativi e per la gestione dei commercianti. Ogni cassa potrà autonomamente individuare delle misure di protezione che si adattano meglio al loro contesto. Quindi dovrete, insomma, tutti coloro che ci hanno scritto, che ci chiedono il geometra, cosa deve fare l'avvocato, il commercialista, dovete guardare sul sito della vostra cassa o raggiungere, esatto, la vostra cassa. 10 secondi, Deborah, per ringraziare Marco Ceresa di Randstad Italia, sì, ringraziare naturalmente Enzo De Fusco, chiedere a entrambi di restare a disposizione perché i tempi sono calamitosi. Deborah? I mutui li facciamo domani, quindi anticipiamolo già ai nostri ascoltatori. Domani avremo anche il presidente dell'ANASF, l'Associazione dei Consulenti Finanziari Italiani, anche per darci qualche pacca sulla spalla se siamo preoccupati in questo periodo per i nostri risparmi, Mauro. E chi non lo è? A domani! A domani!